girare sognando del mare, anche i ruscelli, e se prima gocciolavo giù dai vetri guardando l'arcobaleno, specchiarsi in pozzanghere per esaltare i suoi colori. Ora sono la pioggia che volevo, facile come da montagne russe. Mi tuffo di testa, mi spingo coi piedi e mi alzo in volo. E quanto mi basta è un sogno che faccio, adesso io volo. Sanghera sì che riflette i colori e le stagioni, lungo il tempo che aspetta altro tempo per dare nuove ragioni. E col caldo sarò poi vapore, più in alto di sempre, più dolce di sale. Sentirò il mio peso più lieve, sarà credo come non essere reale. Temevo e planerò dal ciglio di uno scoglio, mi spoglio e faccio il grande salto. Mi tuffo nel mare, affondo le braccia un attimo solo, e quanto mi basta è un sogno la vita, un incontro nel cielo. Tu al mio fianco ti abbraccio ed adesso io sento che volo, sei quanto mi basta, sei il sole.